t'offendiamo. Penso a te, sorrido, ma serio, chi penso a te? Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma sono certo cosa che stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stai cercando. Tanto e penso a te, t'accompagno e penso a te, non soltanto divertente, penso a te. Sono al buio e penso a te, chiamati gli occhi, penso a te, io non dormo e penso